in primo piano. La manovra, la vicenda Tremonti, la richiesta d'arresto per il parlamentare che a lungo è stato suo stretto collaboratore, questi gli ingredienti dei titoli di prima pagina dei giornali per il Sole 24 Ore. Dai tagli all'assistenza 5 miliardi, ancora uno speciale sulla manovra. Scontro Berlusconi-Tremonti sulla norma salva Fininvest. E poi ecco qui la vicenda che davvero sta creando grosse tensioni nel governo. Richiesta d'arresto per Milanese, il GIP paga la casa a Tremonti, il ministro solo ospite, vado via. La Repubblica paga la casa usata da Tremonti, questa è la motivazione del GIP. La Stampa, Tremonti Premier, resa dei conti. Per il giornale, la casa gratis di Tremonti, un'altra bufera. Questo è il titolo d'apertura. Il Fatto Quotidiano, arrestate Milanese, pagava la casa di Tremonti. Per l'Unità, bufera Tremonti. Per il Secolo XIX, bufera su casa Tremonti. Vedete, i titoli sono davvero alcuni quasi fotocopia. Il Messaggero, duello su manovra e Libia. Libero per il secondo giorno sulla campagna contro le province, tassati per le province, questo è il titolo. Il Manifesto invece apre strage low cost, cost in questo caso però è una città dell'Afghanistan dove ci sarebbe stato un raid, dove c'è stato un raid della NATO che ha ucciso dei civili. Allora, come vedete, gli ingredienti sono la manovra, ma sono soprattutto anche queste tensioni legate a Tremonti. Tra l'altro vi annuncio, Repubblica fa un'intervista al Presidente del Consiglio Berlusconi. Nel 2013 non mi candiderò al mio posto Alfano, ma vedremo più avanti. Le segnalazioni da cui voglio partire, la prima è questa, la troviamo su Repubblica pagina 19. È rom, è normale che viva nella sporcizia. Questa è la sentenza, secondo quanto racconta Luigi Spezia, del Tribunale di Parma. Anche se non va a scuola, non la togliamo alla famiglia. La vicenda riguarda una bimba di 12 anni per la quale la Corte d'Appello di Bologna, per la verità, rispondendo alla procura dei minori che le chiedeva di affidare una bambina ai servizi sociali per darle una vita migliore, dice: un piccolo rom senza scuola non subisce un pregiudizio, è solo il suo normale modo di vita. La bambina, ripeto, ha 12 anni, vive in un campo a Parma, in prima media andava poco a scuola, intervengono i servizi sociali, constatano le pessime condizioni igieniche nella quale vive e così il procuratore dei minori decide di togliere, allontanare la bambina dal campo. Chiede al tribunale, la risposta del tribunale, sezione della Corte d'Appello di Bologna, presieduta da Vincenzo De Robertis, stabilisce che la condizione nomade e la stessa cultura di provenienza non induce a ritenere la sussistenza di elementi di pregiudizio per la minore. Non sono provati comportamenti dei genitori che non siano riferibili al normale modo di vita per condizione e per origine. Da qui le polemiche, insomma, è rom, è normale che viva nella sporcizia, questo è il titolo, che non c'è questa parola nella sentenza, ma il concetto è questo, secondo Repubblica, il tribunale decide così su una bimba di Parma, anche se non va a scuola non la togliamo alla famiglia perché vive secondo le usanze dei rom. Ovviamente ci sono polemiche per questa decisione, come davvero lo faccio per il terzo giorno, ma mi concentro su questa vicenda che ormai ha assunto toni sempre più aspri anche nelle decisioni che provengono dalla Gran Bretagna, nelle decisioni da parte di Rupert Murdoch, il magnate australiano che ha un impero editoriale, che ha deciso di chiudere il News of the World, re dei tabloid da 150 anni in edicola, travolto dallo scandalo di intercettazioni illegali, cioè più che intercettazioni i giornalisti avevano ingaggiato degli investigatori privati, erano entrati nei telefonini di vicende anche di militari morti in Iraq per carpirne dei segreti, per scrivere poi degli articoli appunto raccontando le vite che altrimenti non sarebbero state accessibili a giornalisti normali. Insomma, Murdoch chiude il re dei tabloid, così titola il Sole 24 Ore a pagina 14, vi dedica un'intera pagina, ma tutti i giornali, anche il Corriere, la scure di Murdoch, chiuso il tabloid, pietra dello scandalo. E tra l'altro oggi è annunciato per oggi l'arresto dell'ex direttore di News of the World, che per la verità era diventato anche nel frattempo il portavoce di Cameron, adesso è l'ex portavoce del primo ministro britannico, Anche il Foglio in prima pagina: Murdoch chiude il tabloid degli scandali. Prima intercetti e poi muori. Insomma, una vicenda, tra l'altro, che un pochino si lega anche, se volete, al tema del nostro sondaggio. Libero la mette in prima pagina così. Vabbè, insomma, come dire, per fare polemica su Michele Santoro c'è sempre motivo. Per Santoro ci vorrebbe Murdoch. Questo il titolo di prima pagina di Libero in taglio basso. Lo squalo, così è soprannominato Murdoch, lo squalo chiude il tabloid scandalo. Per Santoro ci vorrebbe Murdoch. Che c'entra Santoro in questo caso? Non lo so, ma per Libero è così. E allora alle 7:34 minuti oggi, se prendete qualsiasi quotidiano, troverete tante pagine su questa vicenda, la richiesta di arresto da parte dei giudici di Napoli che indagano sulla P4 per l'onorevole milanese del Popolo della Libertà, che è stato a lungo collaboratore del ministro Tremonti. L'accusa è quella di aver ricevuto auto, orologi di lusso, soggiorni all'estero, in alberghi a 5 stelle, ingenti somme di denaro. Questo in cambio di che cosa? Di avere girato informazioni riservate circa le indagini in corso, perché Milanese è anche un ufficiale della Guardia di Finanza in aspettativa e dunque, in cambio, secondo l'accusa, in cambio di informazioni date per esempio sulle inchieste riguardanti un imprenditore, l'imprenditore Paolo Viscione, avrebbe ottenuto in cambio moltissimi regali. Ci sono anche delle carte pubblicate, ecco qua un po' il tema del nostro sondaggio, no? Che ritorna, quello dell'accusa di gogna mediatica che ci sarebbe in Italia. Gioielli, orologi, macchine, soldi. Questo è l'interrogatorio di Paolo Viscione, 19 dicembre scorso, arrestato per truffa e reati. Denuncia tutti i pagamenti e le regalie al deputato del PDL, ex ufficiale della finanza Marco Milanese. Ha cominciato a portarmi notizie, a intimorirmi sulle posizioni mie, che sembravano preoccupanti rispetto a indagini della magistratura. Mi venne a dire che avevo un problema a Napoli, la cosa mi ha molto impressionato. Mi dice: guarda che hai due indagini in corso. Ed ecco allora le richieste esosissime, e io le adempio gradualmente. 450.000 euro, gliene avrei dovuti dare 600.000, tutti in cash prelevati dalle banche. In un'occasione mi ha fatto leggere anche i testi delle intercettazioni, dice nell'interrogatorio questo imprenditore. Il deputato aveva aumentato le sue pretese, un viaggio negli Stati Uniti per le vacanze natalizie del 2009. Questo è volgarissimo, dice l'imprenditore nell'interrogatorio, perché si è fatto disdire 10 volte il viaggio, perché doveva partire con la Ferilli e con De Sica. Dovevano stare tutti allo stesso piano e si doveva trovare lo stesso albergo. E insomma, e poi le richieste di una macchina, una Ferrari Scaglietti. Alla richiesta della Ferrari, l'imprenditore, così dice, a quel punto ho deciso di ribellarmi, ma anche orologi, gli orecchini alla moglie, insomma pare che gli abbia regalato un po' di tutto. E poi collateralmente, ma è la cosa che fa un po' terremotare anche il clima politico, c'è la questione che secondo i giudici Milanese pagava anche l'affitto della casa a Roma utilizzata dal ministro Tremonti. Ecco qui: la casa abitata da Tremonti nel cuore di Roma, in via Campo Marzio, a due passi da Palazzo di Montecitorio, 8.500 euro al mese, è stato concesso in locazione a Milanese, scrivono i magistrati, ma viene di fatto utilizzato dal ministro Tremonti. Ci risiamo, insomma, la casa, ricordate la vicenda, per carità senza fare paragoni, ma il tema è sempre la casa, una casa, e in questo caso il ministro Tremonti. Tremonti che ieri poi in serata si è difeso dicendo: la mia unica casa è a Pavia. Quella casa era in totale disponibilità di Milanese, ero ospite, ma da questa sera stessa, cioè da ieri, per ovvi motivi di opportunità la lascio. Ma poi in questo interrogatorio, come scrive il Sole 24 Ore con Marco Ludovico a pagina 8, in questa vicenda è stato sentito anche lo stesso Tremonti il 17 giugno dai magistrati di Napoli. Dopo per questa inchiesta, e sentite le cordate nella Guardia di Finanza, lo spaccato, lo scenario offerto dal ministro dell'Economia Tremonti in questo colloquio con i magistrati. Sarebbe davvero clamoroso, una bomba, la definisce il Sole 24 Ore. Tremonti ha riferito in merito all'esistenza di cordate che si sarebbero costituite all'interno della Guardia di Finanza in vista della prossima nomina del comandante generale, precisando come alcuni rappresentanti di quel corpo siano in stretto contatto e rispondano al presidente del Consiglio. Beh, davvero una bomba. Tra l'altro ci sono anche i colloqui tra Adinolfi, vale a dire il capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, e un incontro con il Presidente del Consiglio stesso. E anche per Repubblica il Ministro rivela ai PM Finanza divisa in due cordate, una risponde a Berlusconi. Insomma, avete capito che c'è motivo per uno scontro politico davvero incredibile. Lo stesso giornale oggi titola La casa gratis di Tremonti. Libero pubblica anche una foto dall'esterno di via Campo Marzio al 24, questo è l'indirizzo in cui abiterebbe a Roma il ministro Tremonti, che dice appunto sono solo ospite in questo alloggio ma lo lascio immediatamente. Mentre secondo il giornale c'è una frase che Berlusconi avrebbe detto rigorosamente in privato, giocando un po' su quel cretino che Tremonti si è lasciato sfuggire riferito a Brunetta, il video che insomma anche questo sta creando ha creato qualche polemica, molti malumori. Il gelo del premier si guardi dai cretini che lo circondano. Si guardi lui dai cretini che lo circondano. Questa la frase rigorosamente in privato, secondo il giornale, ne scrive ad Alberto Signore a pagina 4. Data da Berlusconi. E allora voglio andare su Repubblica, perché Berlusconi oggi è intervistato da Claudio Tito, l'intervista a pagina 7, finisce dopo aver presentato il libro dell'onorevole Scilipoti. Berlusconi viene letteralmente prima inseguito dal cronista di Repubblica, risponde, poi dopo ecco qui, entriamo nel suo studio, beve un analcolico, si siede su un divano giallo pallido e parla con Repubblica. Dopo l'esordio, quand'è che smetterete di attaccarmi? Dice, non mi dimetto, ma se potessi lascerei già ora. E comunque non mi candido nel 2013, assolutamente no, il candidato premier sarà Alfano. Così dice Berlusconi, che parla anche del Quirinale, sospira, no, non è per me, al Quirinale ci andrà Gianni Letta, è la persona più adatta, anzi una grande persona. E poi sentite cosa dice di Tremonti, sa, lui pensa di essere un genio, crede che tutti gli altri siano dei cretini, lo sopporto perché lo conosco da tempo, va accettato così, ma è l'unico che non fa gioco di squadra. E perché secondo lei, chiede Claudio Tito, non lo so, è carattere, ma alla fine non può fare niente, anche lui, dove va? Anche nella Lega hanno preso le distanze. E sulla vicenda di Brunetta, ecco, quel cretino è emblematico. Brunetta giustamente parlava ai nostri elettori, lui invece, cioè Tremonti, parla solo ai mercati. E poi ancora sulla norma salva Fininvest, era tutto chiaro, hanno fatto tutto Tremonti e Alfano, dice Berlusconi. Io nemmeno la volevo, ma resto dell'idea che sia un provvedimento sacrosanto. Infine una battuta anche sulla RAI, sulla cosiddetta struttura Delta. Ma quale struttura Delta, risponde Berlusconi, se fosse vero sarebbe una struttura di coglioni, non hanno condizionato un bel nulla. E poi ancora contro i giudici, sa qual è il partito dei giudici, commenta in diretta praticamente nell'intervista la richiesta d'arresto per l'onorevole Milanese, sapete qual è la verità, dice la Repubblica, è che il partito dei giudici si prepara alle elezioni, tutti cercano dei meriti per farsi candidare, la loro è semplice invidia sociale, questa è la disanima dei giudici da parte di Berlusconi, invidia sociale. Insomma, il clima è molto, molto duro, di tensione. Se secondo sia il Secolo XIX che la Stampa ritorna questo mantra, questa volta se il ministro Tremonti minaccia le dimissioni le accetterei, avrebbe detto Berlusconi. Vittorio Feltri anche in prima pagina editoriale si chiede ma con chi sta Giulio? E Vittorio Feltri dice è un socialista, non farà mai la rivoluzione liberale perché non ci crede, non gliene frega niente, gli preme la pace sociale, l'accordo con i sindacati, ha una visione socialista, non liberale. Se Berlusconi pensa di convertire Tremonti al liberalismo si illude, lo si può accusare di tutto meno che di essere incoerente, lui è socialista e fa il socialista. E questa è l'analisi di Vittorio Feltri, che si chiede: ma con chi sta Giulio? E il titolo è questo: con le sue idee da socialista. Vabbè, c'è poi quella vicenda del video. Mentre parlava il ministro Brunetta, Tremonti: questo è un cretino. E poi si rivolge al ministro Sacconi: ma è proprio scemo. Insomma, forse l'avete visto questo video, è un video che certamente ha creato molte tensioni. Ieri tra l'altro c'era il Consiglio dei Ministri. Giulio Tremonti, secondo il Corriere, prova a farsi perdonare. Mi dispiace, era una conversazione privata, mi sento come uno al quale hanno piazzato delle microspie in ufficio. Comunque ti chiedo scusa, Renato, ma chissà le porcherie che dici in giro su di me. Insomma, a battuta. Il ministro Romano aggiunge: certo, è vero, se Giulio sentisse quello che talvolta dico di lui al telefono. Insomma, pare tutto riappacificato. Il Giornale fa una pagina dedicata agli staglio e olio del Garofano, divisi su laurea, Craxi e partito. Insomma, tutte le liti, racconta Giancarlo Perna, tra Tremonti e Brunetta in questi anni. Per il ministro Rotondi, intervistato dal Fatto Quotidiano da Stefano Caselli: i professori litigano sempre come comari, la parola cretino in politica è quasi una gentilezza, dice Tremonti, no? Ha fatto una gentilezza quella di Tremonti a Brunetta. Vabbè, tutti ricordano soprattutto il celebre litigio pare in Consiglio dei Ministri, è diventato storia, almeno questo nel retroscena della politica, quando si rinfacciarono un po' di cose. Poi alla fine Renato Brunetta, per riappacificarsi, allungò la mano e l'altro, Tremonti, in modo cavernoso gli disse: non ti avvicinare o ti prendo a calci in culo. Vabbè, e come vedete la questione della manovra in senso vero e proprio passa un po' in secondo piano, almeno nell'analisi dei giornali, anche se è qualcosa che più tocca direttamente noi cittadini. Però certo, il terremoto politico ha preso tutte le prime pagine. Però voglio ricordare che anche oggi il Sole 24 Ore si dedica con un numero speciale, insomma tante pagine sulla manovra. Le novità che sono oggi emerse sono più in evidenza sul Sole 24 Ore: dai tagli all'assistenza 5 miliardi, questo è il titolo di apertura di prima pagina. I tagli all'assistenza contenuti nella delega fiscale che concorre alla manovra economica valgono appunto per 5 miliardi. Tra le misure c'è una stretta alle pensioni di invalidità e di reversibilità e la centralizzazione presso l'INPS dell'erogazione di un gran numero di prestazioni assistenziali. Tutti i dettagli li trovate con Dino Pesole a pagina 3. C'è anche un diario della manovra, lo stesso Dino Pesole, a pagina 5, un diario della manovra in 84 giorni, un valzer di numeri dalla presentazione iniziale fino alla conferenza stampa di Tremonti, come è cambiata la manovra. E c'è anche un focus su cosa? Le autonomie locali, regioni soprattutto furibonde. Oggi il presidente della conferenza delle regioni Vasco Errani fa una lettera pubblicata in prima pagina dell'Unità: hanno ucciso il federalismo, le regioni sono pronte allo strappo, così le province e anche i comuni che fanno pressing. E tra l'altro vi annuncio che alle 8:20 avremo in diretta l'onorevole Osvaldo Napoli, che in questo momento è anche il presidente reggente dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni, per cercare di capire come le autonomie locali, le regioni, gli enti locali, in questo caso i comuni, approcciano questa manovra che certo taglia molto per loro. Mentre sempre sulla manovra voglio segnalarvi l'articolo di Sergio Rizzo a pagina 12 del Corriere della Sera: ISPESL, l'ente inutile, è soppresso, ma il manager trova posto per legge. Miracoli della manovra, li descrive così Sergio Rizzo. Anche i nomi a volte sono un segno del destino, come quello di Umberto Sacerdote, ex democristiano azzurro della prima ora, carriera di direttore generale destinata a chiudersi insieme al suo ente, l'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, un ente pletorico da 820 dipendenti a tempo indeterminato e 490 precari, perché sì, viene chiuso, ma con un comma, di cui vi risparmio la lettura, va tradotto così, dice Sergio Rizzo: il signor Umberto Sacerdote conserva il posto di direttore generale dell'ISPESL, ente incorporato fino al 2011, e dopo niente paura. Eccolo qui, anche l'altro comma dice questo: ai predetti fini per l'esercizio delle funzioni di ricerca di cui l'articolo 9,6 del decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi del comma 4 può essere affidato un incarico di livello dirigenziale generale a un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5,1 del decreto di Presidenza Repubblica 303 del 2002 in deroga alle percentuali di quell'articolo 19,6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165. Chiarissimo, no? Sergio Rizzo dice: tranquilli, non ci avete capito nulla, ma ve lo traduciamo così. L'incarico dirigenziale generale ha un nome e un cognome, vale per Umberto Sacerdote, il quale, anziché essere costretto a ritornare al Consiglio Nazionale delle Ricerche come dirigente di seconda fascia, potrà restare all'INAIL conservando lo stesso incarico e il corrispondente stipendio. L'ente inutile è soppresso, ma il manager trova posto per legge. Così Sergio Rizzo sul Corriere. Voglio invece andare in una notizia che il Sole 24 Ore mette in un'intera pagina all'interno della prima pagina di Economia e Imprese, riguarda ancora la TAV e anche l'apertura del quotidiano nazionale che titola così: no TAV, no soldi. C'era già stata la minaccia della Commissione Europea, ora l'Unione Europea verso il taglio dei fondi TAV. Il commissario Callas, europeo, dice: in autunno la decisione sulle cifre, ma certo un taglio ci sarà. Bruxelles conferma il sostegno europeo al progetto, ma pesano i ritardi accumulati nella Torino-Lione, ne scrive Giuseppe Chiellino. Il commissario è deluso dall'esito del tavolo intergovernativo che non avrebbe compiuto decisivi passi sul trattato bilaterale. C'è anche un commento polemico di Giorgio Santilli in prima pagina del Sole: complimenti Italia, insomma i fondi della TAV un po' ce li siamo giocati. Io non mi ricordo neanche a che ora devo chiudere, ma il nostro Paolo Corleoni me lo riferisce in cuffia. Allora ho spazio per un paio di segnalazioni. Beh, intanto, visto che Libero citava Santoro, non si capisce sul caso Murdoch perché, però la notizia è che è ufficiale, ora è ufficiale, non un po' come l'annunziata che è tornata, pare sia ufficiale, ora Santoro è via dalla RAI, fine trasmissioni dal collegio dei sindaci, l'ok definitivo all'addio del guru di anno zero, così titola il giornale, ma c'è su tutti i giornali notizia, cioè pare che sia ormai certificato. E poi vorrei segnalarvi un articolo del Corriere, si concentra sui divorzi a 60 anni, l'Istat certifica una nuova vita dopo i 60 anni, raddoppiati i divorzi. Allora, divorzi e separazioni che aumentano numericamente, ma soprattutto si registra dall'Istat un record nell'ultimo decennio di divorzi a 60 anni. Perché è complice, secondo gli analisti, anche il fatto che, insomma, le nuove tecniche, i nuovi aiuti anche da parte della medicina possono aiutare a mantenere la sessualità, soprattutto per gli uomini, anche in un'età avanzata. E dunque molti dicono: se 20 anni fa un pensionato di 60 anni era principalmente un nonno e da lui ci aspettavamo che facesse le parole crociate, giocasse a bocce, oggi i sessantenni sono sportivi, vitali, pieni di voglie. E quindi, insomma, questo comporta anche un aumento dei divorzi. L'ultima segnalazione in prima pagina del Secolo XIX: volete diventare 007, cari italiani, cioè volete entrare nei servizi segreti? E beh, sappiate che ieri all'Università della Sapienza Gianni De Gennaro, il capo dei servizi segreti, Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, si chiama per la verità, dei italiani, ha detto che c'è una legge. Non si prendono solo più dalle amministrazioni dello Stato i servizi, diciamo, gli agenti segreti, ma si prevede l'assunzione anche tramite concorso. Per questo si è collaborato molto con l'università, è stato fatto uno screening finale che li ha ridotti, i primi 15 saranno assunti tra poco. AAA, servizi segreti cercano universitari per posto di 007 sul Secolo XIX in prima pagina.